Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia. Se quello che si fa all'inizio dell'anno lo si fa poi per tutto il resto dell'anno, cominciamo bene con un doppio turno di lavoro per tutta la settimana. Io saluto molto affettuosamente Sebastiano Barisoni, che mi ha lasciato questa eredità ad inizio 2012, ma siamo ben contenti comunque di tenervi compagnia anche in questo 2 gennaio 2012 per l'appunto, un inizio dell'anno che dal punto di vista delle notizie economiche di certo non fa mancare il movimento. La borsa fa partire decisamente bene l'anno, anche se c'è da dire che sono chiuse le contrattazioni a Wall Street e chiusa anche Londra, per cui effettivamente mancano dei contributi determinanti, fondamentali, ma in ogni caso Parigi, Francoforte e Milano oggi hanno mostrato una voglia di affrancarsi completamente dalle altre piazze internazionali e hanno deciso di impostare bene l'apertura di questo nuovo appunto anno, dopo che il 2011 invece si è chiuso in maniera abbastanza turbolenta. L'abbiamo anche detto la settimana scorsa, Milano ha chiuso l'anno con un ribasso del 25% sul FTSE MIB, oggi recupera il 2%. La mattinata era partita bene per gli indici, poi progressivamente si sono tutti quanti rafforzati, in particolar modo oggi le cose sono andate bene a Francoforte, che sta guadagnando il 2,70, Parigi più 1,38. A cosa è dovuto questo buon andamento, a questa buona partenza d'anno? Proprio ad un dato che è arrivato dalla Germania. Ci riferiamo a un dato appunto sull'occupazione, i nuovi occupati continuano a crescere in questa nazione e quindi chissà che questo non lasci ben sperare anche per tutto il resto d'Europa, che in ogni caso si continua a confrontare con una crisi del debito sovrano che non si è certamente ancora risolta. Peraltro presto ritorneranno anche i grandi vertici fra i numeri uno appunto delle varie nazioni europee, e presto c'è proprio, poi ve lo racconteremo nel corso della nostra trasmissione, ci sarà presto appunto proprio questa colazione di lavoro fra il francese Sarkozy e Angela Merkel per rifare un punto della situazione. Chiaramente se la borsa è partita bene non possiamo non monitorare ancora una volta invece l'andamento e l'avvio d'anno per il mercato obbligazionario. Stamattina lo spread, pensavate che in questo nuovo anno non se ne parlasse, no, è stato un tema dominante anche in questa giornata, è ripartito su livelli alti, ben oltre 500 punti base, e poi nella seconda parte della giornata cominciato a scendere, in questo momento viaggia leggermente al di sotto e il rendimento del titolo decennale italiano è sulle 6,90%. Chiaramente questo è uno dei tanti temi di cui parleremo stasera a Focus Economia, il punto della giornata di borsa, ma parleremo anche di altri temi perché, come vi dicevo prima, appunto non ne sono mancate oggi le notizie economiche da approfondire. Intanto lo faremo fra qualche minuto, il primo approfondimento di oggi sarà dedicato proprio a questa notizia arrivata nel primo pomeriggio. L'INPS ha inviato le comunicazioni a quei pensionati che percepiscono pensioni mensili di importo superiore a 1000 euro e che dalle prossime settimane non potranno più percepire questo assegno pensionistico in contanti, ma dovranno trovare una forma alternativa per quello che riguarda il pagamento, quindi non so, o aprire un rapporto di conto corrente se non ce l'hanno, o utilizzare una carta di credito prepagata o un libretto postale. Insomma, si deve trovare qualcosa di alternativo al contante per valori superiori ai 1000 euro e oggi l'INPS appunto ha fatto sapere di aver inviato formalmente queste comunicazioni, anche se poi lo stop ai pagamenti in contante sopra i 1000 euro arriverà solo il 7 marzo, perché ci sono 2 mesi per quello che riguarda l'adeguamento. I vincoli di orario per quello che riguarda i negozi, un altro tema che oggi ha scaldato il dibattito non poco, soprattutto fra le organizzazioni dei commercianti. Sono partiti i primi orari completamente liberi, oggi a sperimentare questa facoltà data loro dalla manovra del governo appunto di dicembre, Roma e Napoli, ma a Roma si è scatenata appunto la polemica, addirittura la Confesercenti, poi ne sentiremo un rappresentante, ha minacciato la serrata chiedendo alla regione di opporsi a questa liberalizzazione. Poi per quello che riguarda la borsa oggi, dopo che naturalmente più tardi vi racconteremo com'è andata per i principali protagonisti di Piazza Affari, faremo un focus su queste giornate di Banca Monte dei Paschi, perché c'è un po' di fermento ai vertici, arriva un nuovo direttore generale che è Fabrizio Viola, che esce dalla Popolare dell'Emilia Romagna, ma a quanto pare questa figura è candidata a diventare nuovo amministratore delegato in una banca che non ha mai avuto una figura di questo tipo, e questo peraltro sta creando un po' di fermento all'interno dell'Istituto Senese, e cercheremo poi di capire cosa sta accadendo. I sindacati sono molto disturbati per come è avvenuta appunto questa nomina per un'altra banca che peraltro avrebbe anche bisogno di ricapitalizzarsi, ma ha fatto sapere che non intenderà farlo nei prossimi mesi secondo appunto i criteri tradizionali, quelli dell'aumento di capitale, quindi vedremo come si procederà su questo aumento. E allora, per i vostri commenti, il numero è sempre lo stesso, è il 349-238-6666. Adesso direi che possiamo andare con le altre notizie in breve. Allora, come vi ho già ricordato, oggi sono chiuse le contrattazioni a Londra, sono chiuse le contrattazioni anche a Wall Street, però anche se è un numero inferiore il numero appunto delle piazze finanziarie oggi regolarmente aperte, in ogni caso dalle principali economie sono stati diramati alcuni importanti dati macroeconomici. In particolar modo è arrivato il dato relativo all'andamento dell'attività nel settore manifatturiero di Eurolandia. È stata segnata praticamente in dicembre la quinta contrazione consecutiva, una contrazione per il quinto mese consecutivo. Al mese di dicembre, per l'appunto, l'indice PMI, il Purchasing Managers Index, che è un sondaggio effettuato fra i responsabili degli acquisti delle imprese manifatturiere europee, appunto questo dato dà conferma della lettura precedente. Il dato praticamente si attesta a 46,9 punti dai 46,4 di novembre, per cui c'è stata una marginalissima crescita, ma la questione che preoccupa è che questo indicatore rimane ancora al di sotto dei 50 punti, che è quella soglia che segna lo spartiacque fra una fase di espansione economica e una fase di contrazione del ciclo economico, per cui essendo al di sotto dei 50 punti l'attività manifatturiera europea è considerata ancora in fase di contrazione. Come dicevamo, magari questo potrebbe anche essere uno dei tanti temi che il presidente francese Nicolas Sarkozy discuterà insieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel lunedì prossimo, 9 gennaio, in questa colazione di lavoro che si terrà a Berlino. Ma a parte appunto la discussione sugli indicatori macroeconomici, in realtà sarà una colazione di lavoro dedicata alla preparazione dei prossimi meeting europei. Dicevamo prima del tema che ha determinato oggi questa ottima partenza dell'anno per quello che riguarda le borse europee. Gli analisti sono abbastanza tutti d'accordo nel affermare che questo andamento si deve al dato che è stato diffuso stamattina dalla Germania. Il 2011 si chiude per la Germania con un record nel numero degli occupati, pensate un po' come sta andando questo paese, saliti per la prima volta sopra i 41 milioni, livello mai superato dai tempi della riunificazione. Il numero delle persone occupate è stato in media di 41,04 milioni, in crescita dell'1,3% rispetto allo scorso anno. Il deficit della Spagna potrebbe aver superato nel 2011 l'8% del PIL, l'ho detto il ministro dell'economia spagnolo, qua io non so sicuramente pronunciarlo bene, Luis de Guindos. Solo la scorsa settimana il nuovo governo di Madrid aveva peggiorato le stime rispetto all'obiettivo di un deficit PIL al 6%. Il nuovo piano di austerità da 15 miliardi, ha spiegato il ministro, è perciò un atto di responsabilità per evitare al paese una situazione insostenibile. Proprio tre giorni fa il nuovo governo spagnolo di Mariano Rajoy ha deciso un aumento temporaneo di alcune imposte nei prossimi due anni. Gli aumenti riguarderanno l'IRPEF spagnola, l'ICI spagnola e l'imposta spagnola sui redditi da capitale. E dicevamo prima che oggi è partito bene l'anno anche sul fronte del mercato obbligazionario, quantomeno per la prima volta da qualche giorno abbiamo rivisto lo spread fra BTP e Bund decennali scendere sotto i 500 punti base. Questo si è verificato soprattutto nella tarda seconda parte del pomeriggio. Il rendimento del titolo decennale appunto a 10 anni è sceso al 6,92-90% circa. Il differenziale tra titoli decennali francesi e tedeschi resta invece sopra i 130 punti base, mentre la forbice fra la Spagna e la Germania oscilla intorno a quota 320. In questi giorni se ne sono occupati praticamente tutti quanti i giornali, che si sono abbastanza divertiti, ma mica tanto, a fare l'elenco di tutti gli aumenti che sono arrivati e che soprattutto arriveranno nei prossimi mesi. E oggi ancora una volta dobbiamo dare conto di una nuova fiammata dei prezzi della benzina, con i rialzi delle addizionali regionali sulle accise. Il prezzo oggi ha sfiorato 1,74 euro al litro. All'IP si è toccata la cifra di 1,73 euro, ma al sud e al centro, dove più forte l'effetto delle addizionali, si è arrivati quasi a 1,80 euro al litro. Ma tanto così, per tenervi nella memoria bella fresca, vi ricordiamo che da ieri sono scattati anche gli aumenti dei pedaggi autostradali, in media il rincaro del 3,1%, ma Autostrade per l'Italia, che è il principale gestore del paese, ha incrementato le tariffe di almeno il 3,5%. Il record spetta alle autostrade della Valle d'Aosta, più 14%, seguite dalle Autovie Venete, più 13%, e dalla Cisa Parma La Spezia, più 8%. Le tariffe, ricordiamo, questo peraltro oggi di questo aumento si è visto anche l'effetto in borsa, saranno più salate anche nelle 2012 le bollette di luce, più 4,9%, gas più 2,5 punti, e il canone RAI, che sale da 110 a 112 euro. E naturalmente tutto questo che cosa comporta? Che gli italiani guardino con timore e diffidenza al 2012. Quasi uno su due, cioè il 48%, ritiene che la situazione economica del bel paese sia pessima, e il 36% degli italiani si aspetta un ulteriore peggioramento delle condizioni della propria famiglia. Questo emerge da un sondaggio Confesercenti SVG. E nel 2011, spiega sempre appunto questo monitoraggio, 83 italiani su 10, quindi l'83%, hanno tagliato, 83 italiani su 100 naturalmente, hanno tagliato le spese, e la crisi continua a mordere. Solo il 62% riesce a coprire con lo stipendio le spese mensili, mentre uno su 4 arriva solo alla terza settimana del mese. Non facciamo la lotta alla ricchezza, ma vogliamo che chi è ricco paghi. Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, intervistato dal TG1 sui nuovi strumenti messi a disposizione dell'amministrazione per la lotta all'evasione fiscale. Guarderemo la differenza fra reddito dichiarato, quello speso e quello risparmiato. Sentiamo questo brano tratto da questa intervista. Ma noi guarderemo la differenza fra il reddito dichiarato, il reddito speso e, diciamo, il reddito risparmiato, quindi quanto c'è nei conti correnti o comunque in banca. Questa è un po' la nostra logica. Se ci sono forti differenze fra queste due voci, reddito speso e reddito risparmiato da un lato e reddito dichiarato dall'altro, chiederemo chiarimenti. Io non vorrei che si pensasse che noi facciamo una lotta alla ricchezza, assolutamente non è questo, quindi non abbiamo spese sospette, spese meno sospette. Noi vogliamo soltanto che chi è ricco abbia pagato le imposte, e quindi andiamo a vedere quanto è stato speso rispetto a quanto è stato dichiarato. Andiamo a vedere se ci sono grandi differenze, quindi se ad esempio un cittadino dichiara 10.000 euro di reddito e spende 100.000 euro l'anno, quindi piccole differenze non saranno mai prese in considerazione. Ed eccoci, avete sentito il cambio di colonna sonora, e quindi questo vi porta naturalmente a ricordare che quando facciamo questa operazione cambiamo anche argomento, e siamo passati al primo approfondimento di questa trasmissione. Allora, come vi dicevo in apertura, l'INPS lo ha fatto sapere oggi, ha inviato circa 450.000 comunicazioni ai pensionati che percepiscono pensioni mensili di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, pagate in contanti, per invitarli a comunicare all'istituto entro il prossimo mese di febbraio quelle che potrebbero essere le modalità alternative di riscossione, scegliendo naturalmente tra l'accredito in conto corrente, se lo hanno, oppure l'accredito su un libretto postale o su una carta ricaricabile. La variazione della modalità di pagamento potrà essere inoltrata via web direttamente ad uno sportello INPS oppure presso gli uffici bancari o postali. E quindi bisogna decidersi, perché dal 7 marzo i pagamenti sopra i 1.000 euro l'INPS in contanti appunto non li farà più. E allora è un tema del quale abbiamo già parlato ampiamente in dicembre, quando appunto è stata varata la manovra Monti, e c'era anche un po' di timore perché sembrava che questo provvedimento, che evitava appunto il pagamento in contanti di determinate pensioni di un determinato importo, partisse immediatamente. Invece, in quanto meno ci sono 2 mesi di tempo. Allora spieghiamo un po' i termini delle decisioni che si dovranno prendere da parte di alcuni pensionati con Nicola Forte, consulente tributario, esperto su queste materie del Sole 24 Ore, ne ha scritto tantissimo e continuerà sicuramente a farlo. Dottor Forte, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, diciamo che questa lettera dell'INPS era un atto dovuto che l'Istituto di Previdenza appunto doveva a tutti i pensionati italiani, soprattutto quelli che percepiscono appunto questi importi. Peraltro adesso stavo ricercandomi il dato relativo al numero dei pensionati che percepiscono una pensione in contante, che la percepiscono perché scelgono naturalmente di percepirla in contante, dottor Forte, ma a prescindere da questo, ci vuole ricordare un po' qual è stata la genesi di tutta questa operazione? E peraltro stiamo parlando un po' di tutta una rosa di pagamenti che la pubblica amministrazione dovrà fare, che per un determinato importo non potrà più fare in contanti, quindi non parliamo solamente delle pensioni. Certamente tutti i compensi, tutti gli emolumenti, tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo, pensiamo anche a un professionista che fa una prestazione nei confronti della pubblica amministrazione, perché poi questa norma nasce con finalità diverse dalla lotta all'evasione e all'antiriciclaggio, intende semplificare, perlomeno per la pubblica amministrazione, perché poi chiaramente c'è un impatto sicuramente significativo perché i cittadini dovranno adeguarsi, ma questa norma nasce sostanzialmente per addivenire a un risparmio di costi per la pubblica amministrazione. Gestire la carta, gestire un processo non elettronico di pagamento richiede una serie di passaggi e quindi una serie di costi in più per la pubblica amministrazione, quindi si è deciso di fare questo passo, richiedendo uno sforzo ai cittadini, proprio in un'ottica di contenimento di costi. E questa è la filosofia della norma, che, come ricordava appunto lei, ha destato molte preoccupazioni nella fase iniziale, perché il decreto inizialmente prevedeva questa novità, il decreto è entrato in vigore il 6 dicembre, allora tutti i pensionati si domandavano, a questo punto, dal 7 dicembre, visto che non ho o potrei non avere un conto corrente, come fare per ricevere il pagamento della pensione? Ed allora, in fase di conversione in legge, cioè quando il decreto è diventato poi legge dello Stato, è intervenuta una modifica, una correzione che ha previsto appunto l'obbligo di effettuare questi pagamenti a carico della pubblica amministrazione, quindi anche le pensioni per l'INPS, attraverso strumenti, come lei ricordava, appunto bonifico bancario, che richiedono un libretto postale, un conto corrente bancario, entro 3 mesi dal 6 dicembre. Ecco quindi che arriviamo alla fatidica data del 6 marzo e la comunicazione dell'INPS che ha annunciato il pagamento non in contanti dal 7 marzo prossimo. Cosa potrebbe ragionevolmente succedere se quel giorno o da quel giorno in avanti qualche pensionato che percepisce appunto un assegno superiore a questa cifra e lo vuole ancora in contanti, dottor Forte, si recasse ad uno sportello postale, le poste saranno autorizzate secondo lei a dire no, non posso erogarti questi soldi? Ritengo proprio di sì, anche perché il messaggio dell'INPS è chiaro. Dobbiamo però anche fare un'ulteriore considerazione a proposito di questo termine 6 marzo, 7 marzo, quindi dal 7 marzo in poi tutte le pensioni dovranno essere accreditate o, come diceva lei, accreditate su una carta elettronica. Questo è un termine che è stabilito in maniera puntuale dalla legge, però c'è un altro punto della legge dove si dice che il termine di 3 mesi, quindi data spartiacque il 7 marzo, decorrente dal 6 dicembre, quindi 6 dicembre, 3 mesi, arriviamo al 7 marzo, può essere, dice la legge stessa, prorogato per specifiche e motivate esigenze con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, che vuol dire che se il sistema ancora non sarà pronto, e quindi mi auguro che si tenga in considerazione anche il grado, diciamo, di reazione di tutti i pensionati, E in linea teorica, poi vedremo come la vicenda si svilupperà, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà allungare questo termine. Certo, quindi immagino che in questo frangente o l'INPS o non so chi effettuerà un monitoraggio costante per verificare quanti soggetti non bancarizzati o che comunque non si doteranno di strumenti alternativi di pagamento lo faranno o non lo faranno, quindi da lì poi si prenderanno eventualmente delle decisioni. Secondo lei potrebbe funzionare anche il sistema che, non lo so, ad esempio, ammettiamo che io non ho più i miei nonni, ma ammettiamo appunto di avere una nonna che percepisce una pensione su questi livelli e quindi è obbligata da qui in avanti ad aprire un conto corrente piuttosto che utilizzare un altro strumento per il versamento appunto dell'assegno pensionistico. Potrei essere per esempio io il tramite, dottor Forte, per l'accredito di questa pensione e poi eventualmente girarla a nonna, non lo so, con un prelievo in contanti. Secondo lei si potranno utilizzare anche, non dico questi escamotage, ma questi... queste modalità che non mi sembrano neanche illegali, tutto sommato, illegittime. Però faccio fatica a pensarlo. Immagino un sistema dove ci sia appunto un flusso tracciato diretto tra l'intestatario della pensione e l'intestatario del conto corrente, del libretto postale o della carta elettronica. Quindi in questa fase direi, per evitare brutti scherzi, per evitare in questa fase che la pensione si blocchi, direi che sotto il profilo operativo il suggerimento, anche se banale, è quello di attivarsi o perlomeno di prendere contatto con la sede, con le sedi territoriali dell'INPS, no? Perché, come ricordavamo, per comunicare le modalità di pagamento, chi ha maggiore dimestichezza con gli strumenti informatici lo può fare tramite il PIN, il portale dell'INPS, o recarsi presso una delle sedi territoriali dell'INPS o attraverso la banca ed un ufficio postale. Allora, intanto sì, sto rispondendo anche a alcuni messaggi che ci stanno arrivando al 349-238-6666. Molti ascoltatori sollevano l'obiezione che per la verità è stata fatta anche quando la norma è stata varata a metà dicembre, cioè che in questa maniera si faceva l'ennesimo regalo alle banche perché si costringeva ovviamente tutte queste persone ad aprire il conto corrente, però anche lì il governo era stato piuttosto chiaro e a quanto pare era intenzionato a chiedere al sistema bancario di dare l'opportunità a questi pensionati di attivare rapporti con l'intermediario a livello gratuito, cosa che naturalmente sarebbe stata non tanto facile, perché che la banca desse l'opportunità di sottoscrivere appunto questi servizi a livello gratuito, Forte, lei come la vedeva possibile adesso? Certo, ma sulla carta più teorica che pratica, però voglio ricordare che in realtà la stessa norma che ha previsto l'obbligo di effettuare questi pagamenti attraverso questi strumenti tracciati, come si suol dire, quindi con conto corrente, tramite un libretto postale, prevede la stipula di una convenzione entro 3 mesi tra Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, le Poste, i prestatori di servizi di pagamento, in modo da definire, chiamiamolo, un conto corrente base con un'offerta, un pacchetto di servizi e quindi anche un certo numero di prestazioni gratuite, la possibilità di avere dei servizi gratuiti ed addirittura per le fasce economicamente più deboli l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo. Quindi poi queste fasce dovranno essere individuate dalla convenzione. La stessa norma poi prevede che se entro 3 mesi questa convenzione non dovesse essere stipulata, le caratteristiche di questo conto corrente base a costi o zero molto ridotti saranno individuate con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, proprio per evitare che i 3 mesi, appunto, per evitare il rischio del decorso, il passaggio dei 3 mesi senza che si arrivi a definire uno strumento non costoso per le fasce. Infatti, dottor Forte, comunque la situazione è ancora fluida. In ogni caso l'importante è che intanto l'INPS abbia inviato le comunicazioni che doveva mandare, poi vedremo che cosa decideranno questi pensionati di fare prossimamente. Noi monitoreremo la situazione. Intanto grazie per essere stato con noi, buona serata e buon anno naturalmente. Grazie anche a lei e buon anno a tutti i radioascoltatori. Grazie a Nicola Forte per aver inaugurato come primo ospite dell'anno Focus Economia. Noi ci fermiamo adesso, un po' di pubblicità, poi ritorniamo e prima della borsa faremo il punto sull'altra questione che vi abbiamo raccontato prima, cioè sulla liberalizzazione degli orari appunto dei negozi, che è già partita a Roma e Napoli, ma non con poche polemiche. Tra poco. Sono le 17.31, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Vi anticipo già che c'è un'accelerazione sul finale per quello che riguarda le borse. Milano si avvia a chiudere la prima seduta dell'anno con un rialzo sul FTSE MIB del 2,42%. Fra un po' vi racconteremo i protagonisti di questa seduta. Vedo anche dei rialzi fra il 4, il 5 e il 6% su Milano. Francoforte più 2,89, Parigi più 1,67, Londra è chiusa, Wall Street anche, ma prima della borsa andiamo ad un altro tema di approfondimento. E allora anche questo un bel tema, tanto per cominciare vi anticipo che già che di questo tema parleremo anche domani a Salvadanaio a mezzogiorno e 10, prendendo a spunto naturalmente l'avvio della stagione dei saldi, quest'anno sicuramente per molti commercianti molto attesa, anche da molti consumatori. Oggi però si è imposto un altro tema all'ordine del giorno della cronaca economica appunto di questa giornata. Perché? Perché da oggi i negozi non hanno più vincoli di orari ed è l'effetto delle misure di liberalizzazione nel settore varate dal governo Monti in precedenza. Ricordiamo che l'apertura senza limiti degli esercizi commerciali era consentita solamente nelle località turistiche. Allora, secondo le organizzazioni dei commercianti, questa decisione causerà un danno al settore che potrebbe provocare la perdita di almeno 67.000 posti di lavoro e, a prescindere diciamo dai numeri, c'è chi ha già preannunciato iniziative di protesta molto forti, tra queste la Confesercenti di Roma che minaccia la serrata e ha addirittura chiesto alla Regione Lazio, che è già partita appunto oggi insieme a Napoli, di opporsi alla liberalizzazione degli orari. Tutto questo in cui però c'è anche da registrare che sono arrivati i primi assolutamente deludenti bilanci per le vendite del periodo natalizio. Allora commentiamo tutto questo con Walter Giammaria, presidente Confesercenti Roma e Lazio. Dottor Giammaria, buongiorno, benvenuto a Focus Economia. Buongiorno, buonasera lo stesso. Buonasera a voi. Allora, parte in salita l'anno per voi, subito con una bella questione da gestire. E allora, ma non ve l'aspettavate a Roma che la Regione Lazio partisse subito approfittando dell'opportunità data dalle liberalizzazioni del governo Monti? No, questo non ce l'aspettavamo, anche perché il decreto pone un problema di 90 giorni prima di decidere. Noi pensavamo che prima che la Regione Lazio decidesse, cioè, si usufruisse di questo periodo per poi avere di fare delle trattative insieme, anche perché vorrei ricordare che il problema del commercio, cioè delle attività produttive e degli orari, rientra nelle competenze della Regione Lazio, delle regioni. Sì, è vero che è un decreto nazionale, però poi ogni regione dovrebbe determinare queste cose. La sorpresa è che la Regione Lazio e il Comune di Roma non stessero ad aspettare che questo, per liberalizzare da subito gli orari della distribuzione. Presidente Giammaria, ci fa capire esattamente che cosa cambia quindi da oggi per il commercio della capitale? Niente più limiti d'orario, che cosa vuol dire? Che tutti i negozi potrebbero teoricamente stare aperti giorno e notte di qualunque tipo? Sì, potrebbero stare aperti giorno e notte di qualunque tipo, 24 ore su 24. La cosa ci sembra assurda, siamo l'unica nazione che ha questo tipo di non regolamentazione. Cioè, noi diciamo sempre che il settore del commercio ha bisogno di regole. Di regole che oggi mancano. Siamo l'unica nazione che non le ha, siamo l'unica nazione che liberalizza il commercio e gli orari, e mentre le altre nazioni come la Germania, come l'Inghilterra, come la Francia stanno facendo invece delle grandi operazioni di ritorno, facendo dei passi indietro su questo tipo di discorso, sia sulla grande distribuzione, cioè sull'inserimento di centri commerciali. La Francia sta facendo e sta creando degli incentivi affinché si ritorni nella piccola e media impresa. Noi che abbiamo il 95% delle nostre realtà imprenditoriali di piccola e media impresa, invece il governo e le istituzioni locali e alcune istituzioni locali vorrebbero uccidere sempre di più. Siamo stufi di questa situazione. Io penso che sia arrivato il momento che la piccola e media impresa reagisca a questo e si faccia non soltanto una serata diciamo nel nostro territorio, ma una serata a livello nazionale, perché questo ci sembra giusto, e che la piccola e media impresa, che crea ricchezza, crea posti di lavoro, crea occupazione, crea bellezza, crea sicurezza nelle nostre città e nei nostri paesi, sta a essere uccisa. nell'indifferenza totale della politica. Cioè, questo non è più ammissibile. Presidente, abbiamo capito perfettamente le vostre motivazioni. In tutto questo però naturalmente dobbiamo anche prendere atto dei dati relativi a come sono andati i consumi sia durante le feste ma anche prima delle feste, come andranno anche nelle prossime settimane, perché lei i giornali li legge come me, sa benissimo quali sacrifici arriveranno e saranno imposti appunto sulle spalle delle famiglie italiane, per cui se si dovrà pagare l'IMU nei prossimi mesi, se si deve pagare la benzina per fare il pieno in maniera sempre crescente, perché qua veramente fare un pieno è diventato impossibile, se si dovranno versare tanti altri balzelli, lei capisce che i consumi ne risentiranno in maniera crescente altrettanto. Quindi mi chiedo, se la liberalizzazione degli orari dei negozi non vi sta bene, come pensate che possa essere fattibile un rilancio dei consumi in questo momento? Ma io penso che il rilancio dei consumi in questo momento dovrebbe rilanciarsi con dei provvedimenti governativi a favore dei consumi. Non è possibile che si chieda la liberalizzazione degli orari, che si chiedono di fare i saldi, abbassare i prezzi dei prodotti, cioè quando sono dei privati, e poi invece i prodotti che sono dello Stato vengono aumentati all'inizio dell'anno. Allora il problema è che sono aumentate tutte le tariffe, diciamo, di luce, gas, imposte, tasse, IMU e tutto quello che ne deriva, e non se ne faccia, diciamo, un intervento per rilanciare il consumo e rilanciare anche, diciamo, le pensioni, oppure riportare e i stipendi al vero reale costo della vita. Cioè, questo noi vorremmo capire da questo governo qual è l'incremento propositivo, cioè qual è lo sviluppo che prevede per rilanciare questi consumi. Cioè, quello che vediamo per noi oggi è arrivato, che vediamo è soltanto una situazione di grande appesantimento della nostra realtà imprenditoriale. Crescono, diciamo, i costi, diminuiscono le entrate, come dicevo lei, c'è stato un abbassamento degli incassi nei nostri negozi, c'è stato un abbassamento degli incassi nel periodo natalizio del 30-40%, cioè è una cosa molto seria, stanno chiudendo migliaia e migliaia di aziende, si stanno espellendo da questo mondo dell'impresa decine e decine di migliaia di posti di lavoro. Io penso che chi ci governa a livello sia locale che nazionale deve vedere che cosa deve fare seriamente. Presidente Gianmaria, intanto i saldi sono partiti oggi al Sud Italia, a Scaglioni partiranno anche le altre città italiane nei prossimi giorni. Che cosa prevedete per queste giornate? Secondo lei le famiglie italiane approfitteranno in massa dei prezzi abbassati, e soprattutto di quanto abbasserete? Almeno vi siete dati una politica, come dire, straordinaria quest'anno, in cui i consumi hanno sofferto un po' di più degli altri anni? Ma noi abbasseremo, diciamo, i prodotti come si è abbassati negli altri anni, che già sono stati abbassati tantissimo. C'è, diciamo, una diminuzione del 30-40% almeno dei prodotti, però io voglio ricordare una cosa: questa partenza di saldi è sbagliata. Noi abbiamo negozi di attività che stanno in vendita promozionale circa 10 mesi l'anno, però la soluzione di questa situazione economica e di abbassamento delle entrate nei negozi non si risolve con i saldi stessi. Lo so, Presidente, però come lei sa, anche sotto il periodo di Natale a me è capitato in più negozi di entrare, dare un'occhiata a vestiti o piuttosto che ad altro, ed essere avvicinata magari dal titolare del negozio che mi dice: guardi, i prezzi sono già abbassati del 10-20%, pur senza esporre nessun cartellino, quindi segnale che la categoria ha bisogno comunque di praticare qualche cosa di più conveniente per i clienti. Ma certo, ma questo l'abbiamo detto, cioè non è che si aspetta i saldi per fare un costo inferiore della propria merce. Come le dicevo prima, ci sono negozi che stanno in vendite promozionali e sconti 10 mesi l'anno. Va bene, Presidente Gianmaria, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro giornate un po' più tranquille, visto che quest'anno per voi è partito in salita. È molto difficile. Ci risentiamo presto. Grazie a lei, buona serata e buon anno. Naturalmente adesso ci fermiamo. Caro Rudy, che dici di ascoltare il campanello della borsa? Ce l'hai? Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera, Deborah. Parte bene la giornata, un poco per i commercianti, perché come hai sentito non sono d'accordo sulla liberalizzazione degli orari, però tante società invece brillano alle tariffe in crescita, meno le tasche delle famiglie, ma le società in borsa quantomeno ricrescano. Chissà che gli investitori, magari in qualità di clienti di società di distribuzione del gas e della luce, magari pagano, per un certo punto di vista pagano le bollette più care, ma magari se investono su questi titoli oggi hanno recuperato qualcosa. Andrea, adesso ho fatto un volo, un po' un esercizio di fantasia, forse un po' anche folcloristico, però direi che la prima cosa da notare è che la settimana e l'anno parte decisamente bene per i listini europei. Francoforte più 3 segna sul finale. Sì, Francoforte è stata la migliore, del resto anche dalla Germania è venuta, diciamo, una delle notizie, un paio, diciamo, di notizie che hanno un po' movimentato la giornata di borsa, per altri versi invece un po' fiacca, soprattutto dal punto di vista dei volumi. I dati che citavamo sono in particolare quelli della situazione occupazionale della Germania, con il numero degli occupati che ha raggiunto quota 41 milioni, e anche la notizia del nuovo vertice tra Sarkozy e Merkel fissato a Berlino per il giorno 9 gennaio, questi due elementi per proseguire il vertice, per proseguire il negoziato del trattato intergovernativo per il patto di bilancio dell'Eurozona, hanno dato un po' la chiave di lettura della giornata di borsa di oggi, che ha vissuto è vissuta soprattutto sugli acquisti riguardanti il settore auto, le assicurazioni e il settore delle utilities, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Mm-hmm. Allora, Milano più 2,42% sul finale, il miglior titolo Terna più 6%, a questo aumento così vistoso, Andrea, è da ricondurre proprio la questione degli aumenti tarifari che a raffica arriveranno prossimamente? Beh, certamente, perché gli aumenti colpiscono innanzitutto, vanno a toccare soprattutto inizialmente il trasporto e la distribuzione dell'energia, quindi attività in cui Terna, la stessa Snam Rete Gas e nel sono focalizzate, e poi vanno naturalmente vanno a toccare l'utente finale, ed ecco perché insomma anche tutte le utilities come A2A ad esempio sono state ben acquistate in borsa. Terna ha fatto più 6%, A2A ha guadagnato il 5,2%. Mediaset invece più 4,86%, a che cosa lo dobbiamo questo rialzo così forte d'inizio anno? Il titolo ha perso il 52% nel 2011, ma per la verità in molti altri gli fanno compagnia con prestazioni così pesanti. Sì, certamente è stato uno tra i peggiori, diciamo, se escludiamo il settore bancario, è stato uno dei peggiori del FTSE MIB nel corso del 2011. C'è da dire che il 2011 si è concluso con la formalizzazione dell'operazione tanto discussa, tanto chiacchierata, di acquisizione di DMT, e quindi di creazione da parte di Mediaset di un polo leader in Italia nel settore delle torri per la trasmissione del segnale televisivo e telefonico, un'operazione molto chiacchierata anche per i paletti posti dall'antitrust all'inizio del mese di dicembre, e però la buona conclusione dell'operazione è stato un segnale positivo che ha permesso agli operatori di ripuntare sul titolo Mediaset così depresso e di fargli guadagnare il 4,9% oggi. Andrea, per raccontare la giornata degli altri titoli ti chiedo un minutino di pazienza, abbiamo suggerimenti perché in viaggio, poi ritorniamo insieme. Eccoci ritrovati a Focus Economia con Andrea Fontana, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Stiamo facendo il punto della prima giornata di borsa dell'anno, che ha visto acquisti molto decisi sui titoli legati alle utilities, e tutto questo è riconducibile agli aumenti di bollette gas e luce che arriveranno nei prossimi mesi, aumenti tariffari a vario titolo. Peraltro stavo cercando come è andata oggi Atlantia, la ex Autostrade, date i pedaggi che ieri sono schizzati verso l'alto. Andrea, titolo più 2,26%. Sì, esatto, era un titolo che per la verità negli ultimi giorni del 2011 era stato molto incerto e anzi tendente al calo, proprio perché non si riusciva a capire l'entità degli aumenti sarebbe stato stabilito dal... Il titolo soffriva anche perché non sapeva se sarebbero arrivati dei rincari interessanti? Esatto, invece però... poi dopo chiaramente la formalizzazione dei rincari ha permesso al titolo di recuperare un po' terreno, quindi diciamo questi nuovi provvedimenti arrivati a cavallo tra la fine del 2011 e l'inizio del nuovo anno hanno un po' mosso molto la giornata di borsa di oggi, come spesso avviene in questi casi. Noi tra poco faremo un approfondimento con la collega Valeria Novellini sul caso Monte dei Paschi. Andrea, ma complessivamente in questa giornata che ha visto lo spread scendere sotto i 500 punti base, le banche come hanno aperto l'anno in termini generali? Poi magari andremo anche caso per caso. Nel complesso le banche sono state tutte positive, perché nessuna delle principali ha registrato perdite, anche perché il FTSE MIB è stato completamente positivo. C'è da dire, guardando alla migliore e alla peggiore, entrambi i casi si vanno a richiamare ad un evento specifico, cioè la migliore è stata il Monte dei Paschi di Siena più 3,5%, la peggiore, pur chiudendo positiva, è stata la Popolare dell'Emilia Romagna più 0,2%, e la notizia di fine anno è stata l'indicazione su cui si dovrà esprimere, per la verità, il Consiglio d'amministrazione del Monte dei Paschi del prossimo 12 gennaio, l'indicazione di Fabrizio Viola, attuale amministratore delegato della Popolare dell'Emilia Romagna, direttore generale del Monte dei Paschi, quindi un passaggio da una Popolare al Monte dei Paschi che ha avuto ripercussioni anche in borsa. Allora, questa prima giornata di negoziazioni in borsa ha visto un titolo, ben due anzi, quindi raccontiamolo tutti e due, crescere del 50%, parliamo di Del Clima, sì, Valeria ride perché abbiamo parlato di questo caso anche nei giorni scorsi, e Premafin Finanziaria più 42%, qua e continua il movimento sulla galassia di Gressi. Da cosa vuoi cominciare, Andrea? Per quanto riguarda Del Clima, insomma, è un titolo appena arrivato, perché appunto si tratta di uno scorporo dal gruppo De Longhi e quindi ha festeggiato davvero in maniera molto positiva l'inizio dell'anno e il suo esordio in borsa. Per quanto riguarda Premafin, naturalmente stiamo parlando di una storia diversa, perché c'è tutto il discorso di ristrutturazione del debito e probabilmente anche di riassetto, anzi sicuramente di riassetto azionario, che coinvolgerà Premafin, Fondiaria Assai e Milano Assicurazioni, cioè i due gruppi assicurativi che sono controllati dalla holding finanziaria della famiglia Ligresti. Premafin, le indiscrezioni degli ultimi giorni dell'anno continuano a disegnare un doppio scenario che dovrebbe vedere o l'ingresso di nuovi azionisti in Premafin, si parla del fondo Clessidra, si parla degli azionisti del gruppo assicurativo Unipol, che poi potranno sottoscrivere l'aumento di capitale della stessa Fondiaria Assai, o direttamente un'operazione che porterà a una integrazione tra i due gruppi assicurativi, cioè tra Fonsai e Unipol, e tutta questa effervescenza naturalmente ha portato il mercato a riscommettere sulla holding, a riscommettere su Premafin, che ha guadagnato quasi il 43%, ma molto bene hanno fatto anche Fondiaria Assai, che ha guadagnato il 6%, e anche Milano Assicurazioni, che ha guadagnato oltre il 5%. Andrea, grazie per essere stato con noi, buon anno, buona serata. Buon anno a te, Deborah. E adesso andiamo a Siena. Magari, per la verità, in realtà rimaniamo qui a Milano. Valeria Novellini, collega analista finanziario dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera e buon anno a tutti. Allora, Monte dei Paschi, titolo in borsa intanto in grande fermento per tutto il 2011, è forse il titolo bancario che ha perso più di tutti gli altri, oltre il 70%? È il titolo infatti che ha perso più di tutti in borsa nell'anno 2011 e diciamo che questa tendenza si è accentuata proprio negli ultimi giorni dell'anno, proprio per il fatto che a questo punto l'EBA, l'ente europeo bancario, ha individuato per raggiungere i requisiti patrimoniali il Core Tier 1 al 9%, per il Monte dei Paschi sono richiesti 3,267 miliardi. Quindi sarebbe necessaria anche per l'istituto sanese una ricapitalizzazione che però, da quello che ho letto in questi giorni sui giornali, non avrebbe intenzione di fare secondo le consuete modalità, cioè l'aumento di capitali. In questo momento c'è in corso un programma forse di conversione di titoli obbligazionari in azione, ma in realtà poi quello che verrebbe incassato con questa operazione sarebbe circa il 10% rispetto a tutta la richiesta di ricapitalizzazione. Ma il tema degli ultimi giorni e delle ultime ore è, cara Valeria, il cambio di guardia tra i vertici, e praticamente esce un direttore generale per entrare uno nuovo. Ne abbiamo parlato prima con Andrea Fontana, arriva Fabrizio Viola dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna al posto di Vigni. Il tema è che Viola dovrebbe andare a fare l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, in una banca che non ha mai avuto un amministratore delegato. Attenzione, l'amministratore delegato non lo ha avuto, diciamo così, non perché la carica non fosse prevista. La carica è prevista nello statuto del Monte dei Paschi, però finora, semplicemente per tradizione, non era mai stata fatta la nomina di un amministratore delegato. Adesso, con il ricambio al vertice, da prima sicuramente Fabrizio Viola sarà nominato direttore generale. Vi è poi la possibilità che venga nominato amministratore delegato e in questo modo farà anche il suo ingresso nel board, nel consiglio di amministrazione della banca. Gli azionisti della banca sono tutti d'accordo con questa nomina? C'è fermento, perché comunque qualche movimento tra i vertici c'era relativamente su questa nomina? Anche se i sindacati interni, per la verità, si sono più che altro messi un po' di traverso, almeno nelle dichiarazioni che sono state diramate oggi. Perché? Diciamo che più che mettersi di traverso hanno richiesto addirittura un ricambio ancora più profondo, in quanto richiedono anche la sostituzione del presidente Mussari, che comunque è in scadenza a marzo e non intende ripresentare la sua candidatura per un ulteriore mandato. Ed inoltre hanno richiesto anche il ricambio del presidente della fondazione MPS, Gabriello Mancini. Allora, dicevamo, tra l'altro c'è stato anche c'è stata una grande attenzione nei giorni scorsi alla rinegoziazione delle linee di credito della Fondazione Monte dei Paschi. No, è rilevante ai fini delle vicende recenti di Monte dei Paschi? Ci puoi un po' ricostruire quelli che sono stati gli accadimenti di Rocca Sanimbeni nelle ultime settimane, Valeria? Gli accadimenti sono molto semplicemente questi. La Fondazione MPS, a seguito del sostegno che ha dovuto dare ai diversi aumenti di capitale, in particolare l'ultimo che si sono succeduti per rafforzare patrimonialmente la banca, si ritrova con un livello di indebitamento molto elevato e quindi in pratica era necessario rinegoziare le clausole di finanziamento con il sistema bancario, perché erano stati sforati i covenant, quindi praticamente le clausole tramite le quali sarebbe potuto essere richiesta la restituzione immediata dei finanziamenti. Queste clausole sono state rinegoziate nei giorni scorsi, prima da 11 istituti di credito e poi successivamente anche dal Credit Suisse, che era l'ultimo, per cui attualmente il finanziamento, diciamo così, è al sicuro. Il problema è che la fondazione resta comunque molto indebitata e nel caso in cui effettivamente ci dovesse essere un ulteriore aumento di capitale non potrebbe aderire per tutta la sua quota. Ha già comunque dichiarato in data 5 dicembre che è disposta a scendere al di sotto della quota di controllo di maggioranza assoluta. Quindi quanto questo, è disposta a scendere? Questo non lo ha detto. Ha dichiarato che è disposta a scendere al di sotto della quota di maggioranza del 50%. Allora, sarà un inizio anno molto interessante per il fronte bancario. Tra l'altro, mentre Monte dei Paschi ancora non ha chiarito in che termini questa richiesta dell'EBA verrà soddisfatta, sicuramente l'ha chiarita abbastanza chiaramente. UniCredit, cara Valeria, perché l'aumento di capitale arriverà nei prossimi giorni. L'aumento di capitale arriverà nei prossimi giorni, non sono state ancora date le specifiche di questo aumento, se non l'ammontare 7,5 miliardi. Ricordiamo che in tutto il 2012 sono stati fatti aumenti, il 2011 sono stati fatti aumenti di capitale per complessivi 12 miliardi e solo l'Unicredit ne farà 7,5 più c'è sicuramente l'aumento di fondiari assai da 600-750 miliardi. milioni, più appunto se, attenzione, entro il giugno 2012 Monte dei Paschi non riuscirà ad adempiere i requisiti patrimoniali richiesti dall'EBA, c'è la possibilità che possa essere messo in campo un ulteriore aumento di capitale. Possibilità per ora, soltanto eventualità. Però, come abbiamo detto, la Fondazione non dichiara più un tabù il fatto di essere azionista di maggioranza assoluta. E quindi potrebbe arrivare anche qualche altro socio. Sì, non potrebbe detto, arrivare. A parte il fatto che gli altri possono incrementare la loro quota, ma in realtà ecco, potrebbero essere anche aperte le Per il momento Caltagirone, che è vicepresidente della banca, è quasi il 4%, il 3,9%. Sì, peccato che ha venduto 35,7 milioni di azioni negli ultimi giorni, per cui diciamo... La quota non è ancora aggiornata, quindi potrebbe essere al di sotto di questa. Inoltre, soprattutto, questa operazione non sembra che preluda al fatto che voglia aumentare la sua quota ulteriormente. Abbiamo già capito che per tutto il 2012 parleremo di nuovo tanto, spesso, di banche, anche quest'anno. Allora, Valeria, grazie per essere stata con noi, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, ecco che mi strozzo anche stasera, a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione. Fabio Cantatore, sai che ti chiamo Rudy, non mi ricordo mai come ti chiami come vero nome, in assistenza tecnica. Signori, noi ci risentiamo domani a Salva Danaio, ma anche domani sera a Focus Economia. Buon inizio anno a tutti. Radio 24, la passione si sente.